24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Nel PD di sinistra non c'è rimasto più nessuno. Diciamo, Fassina, Papa Francesco, in confronto a Epifani e Che Guevara. Che forte che è Papa Francesco. Papa Francesco è un misto tra Gesù e Zapata. E Zapapa. Ha detto la guerra è fatta per vendere le armi, il denaro è la radice di tutti i mali e chi sono io per giudicare un omosessuale? Fassina, sono tre temi che se affrontati in un congresso del PD partono gli allarmi antincendio, Fassina. La Finocchiaro va in paranoia. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Eccoci qua con Crozza. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino. Siamo pronti per una nuova puntata fino alle 9. Con noi c'è sempre Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè pronto lì in regia ad aprire la nostra serranda del Parlamento. È vero? È vero? È vero? Eccolo qua. Eccola, io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui. Mannaggia, che forse ragazzi. Hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Parlamento. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. E vabbè, dai, accorrete al Parlamento. Devo salutare i Two Fingers, che sono gli autori di questa canzone, Parlamento, evviva sì. Voglio salutare subito Paola Saluzzi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, come va? Buongiorno, mitico Milan, come stiamo? Benissimo, e tu? Bene, anche noi. Anche noi chi? A quest'ora del mattino sempre pronti per il Parlamento. Che sempre. Parli, al plurale maestatis, anche noi. Noi c'è? Tutti, noi e chi puntini, c'è? Puntini, chi c'è lì nel letto con te? Chi c'è? Anche noi. Ma cosa no, stavo parlando del nostro meraviglioso compagno del mercoledì. E chi è? E che ne sai tu? E che ne credo sai? Credo sia oggi il direttore dei direttori. Vabbè, annuncialo tu allora questo. Dai, forza, chi no, c'è? No, dillo tu. No, fai tu. No. Vabbè, sì, c'è Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno Luca, eccoci. Buongiorno. Allora, che dici, come va? Tutto bene. Allora, la domanda è d'obbligo. Si sposano? Non si sposano? Pare di sì. Oggi c'è Silvio Berlusconi pure su Vanity Fair in prima pagina. Non ce l'avremo da Bruno Vespa questa sera porta a porta, ma in prima pagina di Vanity Fair l'esclusiva e io lo sposerò. Parla Francesca Pascale, la fidanzata. Dopo Dudu la fidanzata. Direttore, si sposano? Sì, anche, no, Dudu, forse. Anche Dudu, sì, cioè, certo, dovranno trovare qualcuno con cui sposarla. Vabbè, 6 pagine di intervista, che dobbiamo fare? Ce la puoi riassumere? No, io intanto l'inizio, come si fa a dire, ma lo sa che quando ho messo gli occhi su Berlusconi ero minorenne, dice Francesca Pascale, e non era proprio l'esordio migliore da fare, cara Francesca Pascale, ero minorenne. L'ha scelto lei, ha deciso così. Che dice in questa come intervista? Come riassume? No, secondo me la cosa più, adesso al di là del lato divertente, grottesco, chiamiamolo come vuoi, c'è un aspetto importante. Lei sostanzialmente dice tra le righe, e neanche tanto tra le righe, che le famose cene eleganti non erano tanto eleganti, perché lei dice io non ci andavo perché sennò so che sarei scoppiata a vedere quello che succedeva. E quindi, insomma. No, cioè, vuol dire che quella che lo fregherà al processo è la fidanzata. No, adesso. No. Ma insomma, non so se si arriverà a questo, però insomma è un punto di vista, diciamo, un po' diverso da quello ufficiale dell'entourage. Sì, è chiaro. Francesca Pascale, le donne gli si gettavano addosso, io a quelle cene non ci andavo, non mi sarei tenuta. Non mi sarei tenuta cosa vuol dire? No, non che si buttava addosso anche lei, no, che si sarebbe arrabbiata. No, non credo. Che si sarebbe arrabbiata, ovviamente. Vabbè, è così. Paola Saluzzi, dobbiamo iniziare sempre da quello, da Silvio Berlusconi, a questo punto. Dobbiamo iniziare da Silvio Berlusconi, da novità, Marina Berlusconi, da Barbara Berlusconi. Barbara Berlusconi, a Ballarò. Barbara Berlusconi. Berlusconi, che ha ricevuto, diciamo, il 30 e lode dal suo professore Massimo Cacciari, ed è stata un'indicazione importante, quantomeno interessante. Sì, sì. Non so se questo poi la porterà a scendere in campo o a fare politica, però innegabilmente questa Repubblica delle donne che difende Silvio Berlusconi merita studio e attenzione. Le donne di Berlusconi, le donne di Berlusconi, Luca Dini, anche questa è una insomma, si parlava Nicole Minetti che offre il caffè, quindi piano con i giudizi. Ma le figlie e la fidanzata. È una bella svolta, no, a 77 anni, direttore. Beh, forse sono le donne giuste, insomma, sono quelle che a 77 anni, almeno le figlie, uno dovrebbe avere accanto, forse quelle che uno dovrebbe ascoltare. Credo che negli ultimi 3 anni ci siano state donne sbagliate, ma questo penso che l'abbia capito anche lui. Chissà. A proposito di donne, oggi non voglio parlare subito, cari ascoltatori, di IVA. Tanto guardate, ve lo dico subito, le notizie sono queste sull'IVA. IVA è una donna? Iva Zanicchi, sì. Può essere. Tanto fino a venerdì non si saprà niente, ma udite. Io non ci volevo credere, non, perché l'ho detto una settimana fa, non voglio credere che un governo si possa voler così male da aumentare la benzina. O oggi sul Sole 24 Ore si va verso l'aumento della benzina. Ma io dico, ma come fate a partorire? Cioè, mi immagino dei consessi in cui si riuniscono in 10, che facciamo per l'IVA, il miliardo, alla fine, trovato, Saluzzi, aumentiamo la benzina, e tutti, bravo! Ma io non lo so, ma si può essere più deficienti di aumentare la benzina? Sia buono! Ma no, ma dai, ma è una cosa. Non è la trovata migliore. No, non è la trovata migliore, no, è proprio la peggiore. Cioè, voglio dire, per scongiurare l'aumento di una tassa, aumentiamo la benzina che usano tutti. E questo pare che sia un classico. Ho capito, ma è un classico, ma è anche, vabbè, ti dico, anche averlo in quel posto da parte dei cittadini è un gran classico a questo punto, bisogna dirlo, anche. No? Ecco, è un altro gran classico. No, però non vi voglio parlare di questo, ma vi voglio far sentire la presidente della Camera, Laura Boldrini, perché ha aperto un dibattito sul quale sono sicuro voi ci potrete illuminare. Sentite Laura Boldrini cosa ha detto. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. E ancor di più gli spot in cui vediamo che il corpo della donna viene usato per pubblicizzare che cosa? Viaggi turistici, yogurt, automobili, computer. Ma in quale altro paese questo verrebbe tollerato? Allora, questo il tema è molto interessante. Io posso capire lo spot con l'uso del corpo della donna, fin lì ci posso arrivare anch'io. Ma adesso, gli spot nei quali la donna cucina e serve a tavola, dando questa idea di un retro della donna che serve la famiglia. Inizia Paola Saluzzi, tu che ne pensi? Allora, perfettamente in asse col discorso della Boldrini sulla seconda parte, assolutamente no rispetto alla prima. Una famiglia seduta e una mamma che serve a tavola, e già sul verbo servire, e io sottolineo la nobiltà del servire a tavola, quantomeno perché parlo da non mamma, quando io ho degli ospiti che possono essere 1 o 5 o 10, a parte che non so cucinare e quindi lasciamo perdere che prendiamo le cose già pronte e preparate, ma il piacere è quello di servire a tavola. Non lo trovo. No, non lo so. Non io la trovo una giusta. Ma io non lo so. Ma poi, no, sono sincera. Le famiglie, a mio modo di vedere, sono cambiate. Io, per esempio, stasera mia moglie arriverà molto tardi a lavorare e devo servire, devo fare tutto da mangiare, i bambini. Cioè, non mi sto lamentando. È la normalità. Ma chi se ne frega? Non so, Luca Dini, forse esagero. Chi se ne frega se lo spot della pasta, la Barilla, mettete quello che volete, possiamo fare pubblicità. Chi se ne frega? C'è la donna che serve. No, non c'è. Non lo so. Vedi, in questo, direttore, uno stereotipo volgare in cui si vuol far passare l'idea. No, volgare, volgare no. Cioè, ma volgare no, ho sbagliato. Sarebbe bello ogni tanto vedere obiettivamente uno sport dove succede quello che fai tu stasera. Cioè, dove il papà serve. Ma sì, ma forse cioè, ci sono, perché ci sono il dibattito è aperto. Repubblica fa una pagina, Mario Giordano attacca la Boldrini. Ecco, adesso non vuole che le donne servano a tavola. Vabbè, insomma. Io farei una bella intervista, scusate, mi propongo alle mamme degli anni 50. Cioè, se alla fine è risultato così negativo il fatto di servire a tavola. L'importante è che poi, come dire, il resto della truppa aiuti a sparecchiare, lavare i piatti e far mettere magari la mamma seduta quando prende il caffè. No, ma soprattutto edulcorata, magari non accade. Soprattutto però ha aggiunto questo la Boldrini, tra poco vi facciamo sentire anche quando dice come bisogna chiamarla, ma penso anche, ha detto, a chi ha scritto che sono aumentate le spese di pulizia alla Camera perché c'è un presidente donna, come se l'unica cosa che può fare bene una donna è tenere pulite le aule. Ma no, ma chi se ne frega? Ma non è che uno ha scritto che aumenta le spese di pulizia perché c'è una donna e la donna è quella che pulisce le aule della Camera, è perché sono soldi nostri, credo, no? Lucadini, che abbiano fatto questa denuncia per questo, però non lo so. Sì, perché se no avrebbero scritto che erano diminuite. Che erano diminuite, infatti, dovrebbero diminuire con una donna che pulisce bene le aule. Mamma mia, che dibattito! Intanto, il vero dato di fatto, come scrive oggi anche il Fatto Quotidiano, è che sappiate, no? Il Senato spende 1,5 milioni di euro per donazioni a onlus, associazioni, enti. Hanno chiesto di sapere quelli, un questore del Movimento 5 Stelle, ci dite la lista di queste? No, per la privacy. Ma come per la privacy? La privacy. Facciamo beneficenza perché sono soldi nostri con la privacy. Sentite Laura Boldrini anche come bisogna chiamarla. Ci sono più professoresse che professori. Ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi, la maestra, signora maestra, venga, venga, si accomodi signora maestra. Se io chiamassi il direttore Calabresi, direttrice, alla terza volta mi direbbe, ma scusi, lei ha un problema, lei ha un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor Presidente, ogni singolo giorno, e basta. E basta, Lucadini, come la Presidente, come dobbiamo chiamarla? Hai capito? Signora Presidente. Signora Presidente. Su questo Paola Saluzzi, noto conduttore di Sky TG24. Conduttore, cosa ne pensi? Il secondo nome è Ugo, come lo posso dire? Signor conduttore Paola Saluzzi, che signor ne pensi? Di... ma io invece, sì, va bene, è chiaro che ha parlato per paradosso, sì. Però dipende dal, come dire, da quante volte quel ruolo sia stato incarnato da uomini o da donne. Io sarò di mentalità militare, ma se mi chiamassero signor Presidente sarei così contenta. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni. Signor generale. Sì, è una polemica probabilmente estrapolata, adesso cominciamo a parlare, difficile, estrapolata da un discorso più ampio. Insomma, credo che ci siano anche cose, lo dico con infinita stima nei confronti della Presidente, un po' più importanti, ma ci sono ancora delle cose un po' più così, sì, lievemente, credo che parlasse della violenza sulle donne, lievemente più importanti, no, certo. Ci arrivano messaggi, io la Saluzzi l'adoro, Luca da Milano, per fortuna la Saluzzi c'è a sollevare il morale delle truppe, e questo no, la Saluzzi no, si scrive, no, tanto, poco finisce, sia no. Buono, non ti preoccupi, qualche minuto e vado via. Su. 24 mattino. Ma lo vogliamo capire o no che il problema siamo noi, non sono i politici, siamo noi, è il nostro disinteresse a ciò che fanno che ci ha portato a questo. Se non ci svegliamo, il margine c'è per peggiorare ancora di più. Buongiorno Milan, sono Imma. Volevo dire che devi spaziare questa rassegna stampa, poi tu sei un po' depresso, fatti una buona cura di punture, perché c'è il cambio di stagione, dall'estate si passa all'inverno, hai capito? Bisognerebbe dire a tutti questi professori e studiosi e saggi che studiano appunto la situazione economica, che aumentare l'IVA non è una cosa certa, cioè nel senso che i benefici di questo aumento della tassa sono ipotetici, basta che noi consumatori riduciamo i nostri acquisti e le entrate per questo non cambiano. Sono Francesco, erniboide de Torquato, io ho 600 di pensione e pago 7 di pigione e con quello che non ci avanza ne ci dovrei riempire la panza. Poi qualcuno dice che ce lo paga pure le tasse, ma che è vero? Oh, fatemi sapere. Non so, fatemi sapere, sì, temo di sì. Ma cos'è che devi fare tu, le punture? Le punture, sì, sì. Ma la signora è turbata da altri problemi, ma no, è una so. Signora che mi manda tantissimi messaggi, la saluto, Imma, credo si chiama Imma, come ha detto. Ma le punture, sei depresso? No, ma no, in realtà no, in realtà no. Ma assolutamente, signora, ma che radio sente la mattina? L'unica cosa vera che ha detto è che c'è il cambio di stagione, insomma, da adesso l'autunno. Sì, ma dall'estate si passa all'autunno, signora, se ricorda a scuola le una volta ogni 21 cambia la stagione, ma adesso è autunno. Non ci sono più, sì, certo, non ci sono più le mezze stagioni, giustamente, come dice Lucadini. È chiaro, è chiaro. Allora, per quel che riguarda, vabbè, le notizie che trovate sui giornali, la maggior parte sono appunto, ecco, l'IVA, la benzina, io non ci sto dentro, la benzina, vi rendete conto, la benzina, qua ci vuole... Basta! Ecco, il grande Oscar Giannino che torna, mi sa che torna. Allora, vi voglio far sentire questo audio preso dal sito, credo, di oggi. Sentite. Musiche africane. Sai cos'è, direttore Lucadini? Sai cos'è? Viene dal Congo. Il papà della Kieng, come spiega la voce, sta pregando perché un essere malvagio esca da Calderoli. Tiene letto un messaggio di benvenuto, ma prima che Kieng possa rispondere, è tutto vero. Che da queste, ecco, parti non gode molta simpatia. No, Calderoli, hai sentito, non gode di molta simpatia, dice lo speaker. Da queste parti in Congo non gode di molta simpatia, Lucadini, hai sentito. Però, considerato quello che ha detto, pregare per lui mi sembra un gesto molto civile. No, pregare perché esca il malocchio, il maleficio. Pregare per lui. Sì, comunque dice, è una salvezza e lo porta alla salvezza. È un gesto nobile, mi ricorda. Ma che è un gesto Alberto nobile? Sordi. Mi ricorda Alberto Sordi in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, e eravamo in tre, temevamo in tre. Certo, non lo so. L'esorcismo della famiglia Kieng a Calderoli. Il problema è, ci riusciranno? Questa è la domanda. Cioè, la domanda è, riusciranno a ottenere questo esorcismo? A ottenere gli effetti. Secondo me c'è troppa distanza, non c'è campo. Secondo me dovrà fare un esorcismo abbastanza approfondito. Vabbè, insomma, qua devo dire che sul tema di prima ci sono dei messaggi. C'è chi ci dice anche, lo di nostri ascoltatori, la Boldrini sta sbroccando, ecco, con queste tematiche. No, vabbè, ecco, subito Paola Saluzzi, ma deve difendere, no? Donna o come presidenta? Presidente. Come presidenta non lo dirò mai, no, le voglio bene, ma non lo dirò mai presidenta. La presidente. No, ci sono dei nomi che non vanno rovinati. Presidente, punto. E basta, voglio dire, se uno lo vede e non porti mustacchi, saprà che sei presidente senza baffi. Su via, ecco, forse credo che tutto questo rientrasse, ribadisco, in un discorso un po' più ampio. Sì, preso, sì, io vorrei... singolarmente, certo. No, che dici? Che dici, direttore? No, volevo aggiungere che puoi chiamarmi direttrice. non ti offendi. Ma questa è una cosa che dovremmo dare alla redazione di Vanity Fair, e da oggi sei spacciato, direttrice Lucadini, si può chiamare direttore di Vanity Fair, di cui abbiamo detto la copertina, allora queste sette pagine a Francesca Pascale. Ma come vi è venuto in mente l'intervista alla Pascale? Cioè, come nasce un'intervista del genere? Perché... Ma è curiosità, banalmente curiosità, volete sapere? Devo dire che ho visto le foto, ci sono tutte le foto di Berlusconi, come dire, non mi sembra molto truccato mi sembra nature, così, no, in queste foto, o no? Beh, ma sai, lui è per quello che si può dire alla TV, sì, nel senso ciò che rimane. Vabbè, come lo chiama in privato Paola Saluzzi, sai come lo chiama? No, leggerò oggi Vanity Fair. No, te lo anticipo, poi puoi comprarlo lo stesso. Amore, oppure lo chiama B. Mai amore. Silvio, B, Berlusconi, no, B. B, certo. B. Lo chiama Amore oppure B. Mai Silvio, capito? Non lo chiama mai Silvio. Vabbè, e questo lo dice a fianco a una foto, c'è ovviamente anche Dudu, su Vanity Fair. Vi ringrazio, grazie Luca Dini, alla prossima. Paola Saluzzi, oggi alle 3 che fai? A Sky TG24 politica. Ovvio. A Sky TG24 pomeriggio politica e anche un po' di Telecom e Alitalia che sembrano mirare verso altri lidi e migrare soprattutto abbastanza verso altri. Sì, non ne abbiamo parlato, ma ne parlerà poi alle 9 Simone Spezia. Grazie a Paola Saluzzi di Sky TG24 pomeriggio alle 3, la potete vedere. Ci risentiamo la prossima settimana, giornale radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:20 minuti in punto, siamo qui, cari italiani, anche voi debosciati che vi siete aggiunti solo ora, siete benvenuti, con grande affetto, grande abbraccio, siamo qui pronti a leggere i giornali, dico debosciati perché noi siamo svegli da prima e andiamo in onda alle 6:30, ricordatevelo, dalle 6:30. E allora, che dire, oggi di cosa parleremo? Oggi avremo uno dei questori della Camera, si dice sempre i costi della Camera sono alti eccetera, ci sono tante brutte notizie da questo punto di vista, anche alcune buone notizie, per esempio oggi lo scopriremo alle 8:15 e poi ci fermeremo lì. Per il resto, finanziamento ai partiti, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo sentito anche il GR24, un disastro, parleremo di questo, ma è anche uno dei temi che trovate sviluppato sui giornali e dunque andiamo subito a sfogliarli. Questo mercoledì 25 settembre, intanto i titoli, le aperture sono quasi tutte declinate da parte dei quotidiani alla vicenda Telecom. Governo pronto a difendere la rete, così titola Il Sole 24 Ore in prima pagina, con il premier Letta che dice vigileremo, ma Telecom è privata. Telecom scuote la politica, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Telecom l'Italia svende. Il Fatto Quotidiano, hanno spolpato il paese, svenduta anche Telecom. La Stampa, Telecom spagnola, via libera di Letta, può migliorare. Il Messaggero, Telecom un caso per il governo. Avvenire, Italia saldi e soldi. L'Unità, non svendiamo l'Italia, una sorta di appello. Il Manifesto, è caduta la linea, e c'è una vecchia foto di una vecchia cabina telefonica. Il Secolo XIX, Telecom bufera sulla vendita. Come vedete, le aperture sono quasi tutte così. Libero invece titola una vicenda personale del direttore Belpietro. Carcere a Belpietro, Italia condannata. La Corte Europea dà ragione al nostro direttore che era stato punito con 4 mesi di carcere per aver pubblicato un articolo. Vediamo se ora il Parlamento si deciderà a cambiare la legge. Dunque Strasburgo dice no al carcere per i giornalisti. Per il giornale, Napolitano prepara la stangata su tasse e manovre finanziaria, il Colle detta le condizioni a Epifani e Alfano. Ieri Napolitano ha ricevuto i leader dei due maggiori partiti di governo. Come detto però, noi parleremo alle 8:30, ve lo ricordate, settimana scorsa avevamo il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Sisto, del Popolo della Libertà, qui a 24 mattino ha detto... alla domanda precisa, senta, non c'è accordo tra PD e PDL sulla legge che deve rimodulare il finanziamento ai partiti, se è sicuro che entro una settimana si troverà un accordo? L'accordo si troverà, un qualche accordo si troverà, un qualche accordo si farà. Soldi ai partiti, l'accordo salta, il maxi assegno no, titolo del giornale. Soldi ai partiti, rottura PD-PDL sul tetto alle donazioni dei privati, titolo di Repubblica. Finanziamento ai partiti, l'accordo non c'è, titolo del Corriere della Sera. Soldi ai partiti, la legge si ferma sul tetto, le larghe intese saltano sulle donazioni ai privati, titolo del Fatto Quotidiano. Soldi ai partiti, è rissa, PD e PDL si spaccano sulle donazioni private, titolo del Messaggero. Che cosa devo aggiungere, cari italiani? A parte quello anche un po' sconsolato, che è il mio appello solito, tenete le mani strette sul volante, forse l'ho detto un po' troppo in ritardo, se siete andati a sbattere poi non lamentatevi con le assicurazioni dicendo che è colpa mia. Però è così, insomma, c'è un po' di scoramento, un po' tanto scoramento, quando si vede che le promesse non vengono mantenute. Per questo mi viene una battuta anche molto amara. Ieri Letta, il premier Letta, all'estero ha detto: gli investitori stranieri vogliono sapere e ci chiedono, e chiedono a noi della politica, se manterremo le promesse. Ecco, gli dica pure di no, caro premier, così facciamo prima, evidentemente. Oggi poi uno legge sul Quotidiano Nazionale e il Fatto Quotidiano, due pagine, con una denuncia di uno dei questori, anzi adesso, visto che poi è un tema della rassegna stampa, tutto quello che ha detto la presidente Laura Boldrini, avete sentito, la presidente Laura Boldrini, adesso forse la dovrei chiamare questrice della Camera, perché è donna. Laura Bottici del Movimento 5 Stelle, senatrice, ha fatto una denuncia che trovate sul Quotidiano Nazionale, appunto, e sul Fatto Quotidiano, che è codesta. Udite, udite, sentite bene. Ogni anno il Senato della Repubblica Italiana spende 1,5 milioni di euro in donazioni a Onlus, enti, associazioni, e la questrice Laura Bottici del Movimento 5 Stelle ha detto: potete gentilmente farci sapere un elenco, una lista di tutte queste associazioni che godono di queste donazioni da parte del Senato, visto che sono soldi pubblici? C'è la privacy, hanno risposto. Quando ha posto la questione all'ufficio di presidenza, leggo a pagina 2 del Fatto Quotidiano l'articolo di Paola Zanca, Pietro Grasso, il presidente, le ha risposto: è un problema che finora non si era mai posto, lo risolva coi questori. E Laura Bottici, questore pure lei, questrice dico io, coi suoi colleghi Malan e De Poli, non ha mai fatto troppo squadra, li bypasso, spiega. E allora niente da fare, a 6 mesi dalla sua elezione il lavoro di controllore alla cassa del Senato si ferma lì e dunque non si può sapere chi sono i beneficiari di 546.140 euro elargiti nel 2012 tra associazioni, onlus, fondazioni, quali? Non si sa. E 130.299 euro destinati a persone fisiche. Non ci sono i nomi degli ospedali, delle scuole che ha ricevuto contributi. Perché c'è la privacy. La privacy, ma la sono soldi nostri. Com'è possibile che ci sia la privacy in quello che è il palazzo delle leggi, della politica, dovrebbe essere il palazzo della trasparenza, dove tutto è chiaro, dove tutto è denunciato per filo e per segno? Niente, affitti, viaggi e carta, mani bucate in Parlamento, così è il titolo a pagina 2 del Fatto Quotidiano, ma anche i conti del Senato finiscono sul web, spese folli, 1 milione al vento, vanno 546.000 euro ad associazioni, 146.000 euro a enti religiosi, 130.000 euro a persone fisiche, per un totale, poi si arriva aggiungendo altre cose, enti locali, eccetera, fino a 1,5 milioni di euro. A chi ha chiesto banalmente la questrice del Movimento 5 Stelle? C'è la privacy, non si sa, non si può dire. Vabbè, vi lascio con questo scoramento. È il momento della pubblicità del meteo e poi ripartiamo da che cosa? Dalle notizie economiche, certamente, ma anche quindi le notizie economiche Telecom, le notizie Alitalia, i dossier che insomma stanno rendendo calda la questione politica e anche la questione dell'IVA, che entro venerdì va risolta, perché lunedì e martedì, 1 ottobre, quindi bisogna capire se aumenterà quest'IVA oppure no. E udite, udite, io non ci volevo credere, anche questo l'ho detto settimana scorsa, no, non potranno farlo, non possono aumentare ancora la benzina, non può essere quella la soluzione, non si possono volere così del male al governo per scegliere questa soluzione. Pare che la soluzione più ovvia in campo sia questa, aumentare l'accisa alla benzina per scongiurare l'aumento dell'IVA. Questo è. Ecco Alessandro Milan, che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, le 7:34 minuti. Allora, come detto, la maggior parte dei giornali titolano sulla vicenda Telecom con la cessione agli spagnoli, e c'è da dire anche che la vicenda Alitalia con la possibile cessione ai francesi. Ah, ma come? Era una vicenda di qualche anno fa, poi fermata, poi alla fine pare andrà così. Comunque, insomma, il tema è pezzi importanti di italianità che vengono svenduti. C'è ovviamente un punto di domanda, questo è su cui è il tema su cui si interrogano molti giornali, quasi tutti i giornali. Allora, intanto la cronaca dal punto di vista economico e finanziario. Marigia Mangano a pagina 3 del Sole 24 Ore racconta: Telefonica conquista Telco in 3 tappe. Gli spagnoli di Telefonica, con un'offerta da 860 milioni, tracciano il percorso che li porterà a regime a diventare primo socio di Telecom Italia, ma per almeno un anno blindano assetti e governance di Telco in modo tale da non figurare come socio di controllo del veicolo a cui fa capo il 22,4% di Telecom Italia. Questo, in estrema sintesi, è il senso dell'accordo siglato ieri mattina tra i soci italiani di Telco, Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali col partner spagnolo. Ieri, in un comunicato, i grandi soci di Telco hanno alzato il velo sui dettagli dell'accordo siglato con Telefonica. In pratica, il gruppo spagnolo, oggi socio di Telco al 46,2%, si prepara a aumentare la presa sulla holding fino al 100% con un'operazione in più passaggi. Allora, intanto la Consob ha acceso un faro, come si dice in gergo economico, sul caso Telecom, ovviamente per controllare la situazione. I vertici di Telecom, siamo sempre sul Sole 24 Ore a pagina 4, il titolo è: Bernabé in trincea, studia le contromosse nella partita delle telecomunicazioni. Laura Galvagni e ancora Marigia Mangano raccontano: l'intesa di Telefonica coi soci italiani di Telco traccia le tappe del riassetto azionario che ai fini pratici non porta alcun beneficio finanziario a Telecom Italia, senza contare che gli eventuali contorni industriali dell'intesa sono ancora tutti da verificare. Per questo forse il presidente di Telecom Italia, Franco Bernabé, ieri mattina si è affrettato a chiarire un paio di concetti. Primo, lo spagnolo è una delle poche lingue che non parlo, ha detto. E poi Telecom Italia non è diventata spagnola. E ancora, l'operazione non riguarda Telecom, ma Telco. E solo Telco ha avuto un cambiamento azionario. Insomma, da queste poche frasi e pochi concetti, racconta il Sole, il punto che si evince è che il leader di Telecom, Bernabé, non ha mai sponsorizzato questo matrimonio con la spagnola Telefonica, anzi aveva cercato altre strade come l'offerta H3G o la carta Sawiris, l'egiziano, due opzioni che il manager ha portato direttamente sul tavolo del consiglio di amministrazione, ma che alla fine non hanno ottenuto il necessario via libera del board. E dunque per questo il titolo Bernabé in trincea dato da tutti. Ovviamente ci sono tanti articoli sulla storia di Telecom, sulla storia della privatizzazione, sulla storia dei capitani coraggiosi. C'è anche una breve intervista a Romano Prodi, era il 97, con D'Alema al governo, che ci fu il via alla privatizzazione di Telecom. Per questo ieri tra D'Alema e Beppe Grillo sono volate anche accuse molto molto forti, come dire: Grillo ha detto è colpa tua, da lì è iniziata la svendita, D'Alema ha detto era già un'azienda privatizzata, non ho svenduto nulla. Insomma, è anche questa vicenda che ha una svolta importante, una cronistoria di un pezzo di finanza e di economia italiana non indifferente. Per esempio è interessante, tra le varie interviste, anche Yoram Gutgeld è un onorevole economista molto vicino a Renzi, quindi Partito Democratico, che, intervistato da Valentina Conte su Repubblica, dice: così regaliamo due colossi, il governo agisca, e i due colossi sono Telecom appunto e anche Alitalia, perché anche la vicenda Alitalia è una vicenda che ha avuto uno sviluppo non indifferente nelle ultime 24-48 ore. Detto che, tra l'altro, lo ricordo, alle 9 poi Simone Spezia in 9 in punto parla proprio di questa vicenda Telecom. Alitalia, dicevo, è l'altro colosso, lo definisce l'onorevole Gutgeld, che rischiamo di svendere. È interessante oggi l'articolo di Gianni Dragoni in prima pagina del Sole 24 Ore per quel che riguarda l'Italia. Crisi all'Italia, tocca a Parigi. Dragoni spiega subito all'inizio dell'articolo: all'Italia ha bisogno di 400-500 milioni di euro per evitare il collasso. Ma è molto incerto chi metterà questi soldi tra richiesta di aumento di capitale e nuovi prestiti alle banche. Le banche vogliono che i soci mettano capitale fresco, circa 200 milioni, però molti dei 20 soci italiani non sono in grado o non vogliono sborsare altri soldi. Si aspetta dunque che Air France e KLM faccia la prima mossa. Le comunicazioni tra Roma e Parigi sono rarefatte dopo il CDA, il Consiglio di Amministrazione dell'altra sera, che ha rimandato la palla nel campo della compagnia italiana. Il 75% dell'Alitalia è posseduto dai 20 patrioti, così sono scritti tra virgolette, chiamati da Silvio Berlusconi nel 2008 per respingere l'offerta di acquisto di Alitalia presentata da Air France KLM. Adesso sono gli stessi soci italiani a sperare nell'intervento salvifico del socio francese rientrato nel 2009 con il 25% in Alitalia. Ecco, era questa la vicenda. Ma come? Vai francesi. Ma era nel 2008, ricordate? No, la difesa dell'italianità. La difesa e quindi chiamati i patrioti. Ecco, questi stessi patrioti adesso dicono: questi 400-500 milioni, molti di questi non abbiamo più soldi, non vogliamo metterli, e quindi viva i francesi, viva la France, viva l'Espagna. Io credo dalla mia totale ignoranza che la domanda che si pongono gli italiani è: ci sono aerei che volano puntuali e hanno prezzi competitivi? Viva chi ce li porta. Ci sono la telefonia, la banda larga, le comunicazioni efficienti, le scuole magari tutte connesse in modo che i nostri studenti possano studiare sui computer come succede in tutto il mondo e non sulle lavagne che a volte non ci sono? Viva chi ce li porta, che siano spagnoli, francesi, arabi, cinesi, così. Io la vedo così. Il premier Enrico Letta, che in questi giorni è a New York, prima in Canada, ora a New York c'è l'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU, e ieri ha incontrato anche il New York Times, è andato al New York Times, immagino per un'intervista, comunque con incontrare la redazione, ha detto: guardiamo, valutiamo, vigileremo sul fronte occupazionale, ma bisogna ricordare che Telecom è una società privata e siamo in un mercato europeo. Ecco, in questa dichiarazione molti vedono il titolo Il sì di Letta, come il Corriere della Sera. Siamo in Europa, vigileremo certo sull'occupazione. Va bene, questa è un po' l'economia, pezzi di economia importanti italiani che in questo momento sono nel centro del dibattito anche politico. In tutto questo il dibattito politico si interroga su questa vicenda che è diventata la telenovela delle telenovele. Dopo la vicenda della telenovela politica della decadenza di Silvio Berlusconi, questa almeno avrà una fine più immediata. Il 1 ottobre aumenterà l'IVA o no? E siccome il 1 ottobre è martedì prossimo, non è tra 10 anni, ecco che tutti guardano con attenzione al Consiglio dei Ministri di venerdì. Quello è il Consiglio dei Ministri dove poi c'è il weekend di mezzo, dove si deciderà di fatto in maniera definitiva se l'IVA aumenta o no di un punto percentuale dal 1 ottobre. Io avevo detto la scorsa settimana, quando si profilava questa idea, no, ma un esecutivo non può volersi così del male da pensare al più classico degli aumenti storicamente utilizzato in Italia, quello della benzina. Aumentare le accise sulla benzina, ricordiamo che paghiamo ancora le accise per la guerra in Etiopia, per tantissime altre, per terremoti che sono fortunatamente passati. E invece è così. IVA rispunta l'opzione benzina, pagina 11 del Sole 24 Ore, Marco Rogari, rispunta l'aumento delle accise sui carburanti. È questa la copertura che potrebbe essere messa sul tavolo del Ministero dell'Economia per garantire il miliardo necessario per il prolungamento a fine anno della sterilizzazione dell'IVA. Tra l'altro, tradotto questa frase, cari ascoltatori, vuol dire che aumentano forse le accise della benzina, così scongiurano l'aumento dell'IVA, ma per tre mesi, poi magari tra 3 mesi l'IVA aumenta, ma state certi che l'accisa sulla benzina non diminuirà mai, mai. Una volta che c'è l'aumento non torna mai indietro. Comunque è così, venerdì, racconta Rogari, ci sarà una manutenzione dei conti da 1,6 miliardi. Secondo la stampa, Alessandro Barbera, anche lui sempre molto informato delle questioni economiche del nostro Stato, Conti, il governo è ancora a caccia di 3 miliardi da trovare entro venerdì, 3 miliardi. Io metto i miei su due soliti eurini a disposizione, li ho in tasca, giro con quelli. Carmelo Lauricella, che è entrato in studio, si setaccia come una perquisizione della polizia a vedere se gli spunta un euro da offrire al Ministero dell'Economia da qui a venerdì, o anche 50 centesimi vanno bene, Carmelo. 50, tutto quello che hai va benissimo. 3 miliardi, alla ricerca di 3 miliardi da qui a venerdì. Così la stampa racconta il governo. In tutto questo ci sono appunto miliardi che ballano, miliardi che bisogna trovare. Alla fine cosa faranno? Forse aumenteranno la benzina. E poi uno va sia sul Sole che sul Corriere a leggere questa notizia: le bollette dell'acqua non pagate. Vi do questa cifra, sapete quante bollette dell'acqua non sono pagate? Una cifra di 3,8 miliardi. 3,8 miliardi. Il 4,3% degli utenti non paga la bolletta dell'acqua da almeno 2 anni. Il 4,3% degli utenti, creando un ammanco di 3,8 miliardi. Ma sapete, tra i pagatori più pessimi, tra i pagatori peggiori che ci sono, chi c'è? La pubblica amministrazione, lo Stato. La pubblica amministrazione non pagano le bollette dell'acqua ai fornitori di servizi idrici. E sono soprattutto loro quelli che hanno un grande peso negli utenti che non pagano da 2 anni almeno la bolletta dell'acqua, creando un ammanco dai fornitori di servizi idrici di 3,8 miliardi. Ma dove si vuole andare? Dove si vuole andare? Possiamo solo andare a sentire le informazioni sul traffico, non di più. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, mentre ci sono queste cose concrete, c'è la crisi, ci sono le difficoltà, non si trova 1 miliardo dell'IVA, c'è un'altra notizia che sul Corriere della Sera giustamente viene messa in prima pagina e commentata da Dario Di Vico, che è una fotografia del momento attuale. Ieri si sono presentate a Genova 500 donne in coda per un sogno, quello di fare la commessa, per accaparrarsi uno dei 3 posti di lavoro da commessa che era data da una catena di abbigliamento. E scrive Dario Di Vico, ecco le 500 donne in coda, il sogno di fare la commessa, attratte dalla vitalità del commercio, dagli orari garantiti, insomma certamente diventano immediatamente queste 500 donne alla ricerca di un posto di lavoro da 1.100 euro una istantanea della grande crisi. Ed è così. E mentre tutto questo succede, la politica ieri, per carità, affrontando un tema importante di base, quello del femminicidio, della violenza sulle donne, un tema molto sentito anche in questo momento in Italia, ecco che cosa ci regala. Io non ci volevo credere, ma da oggi voglio fare un appello a voi, cari ascoltatori. Allora, la presidente della Camera, Boldrini, mai più mamme ai fornelli. Titolo di Repubblica, un'intera pagina. La battaglia delle donne contro gli spot sessisti in TV. La presidente della Camera, Boldrini, che tra l'altro ha detto chiamatemi non più signor presidente, non ne posso più, se la prende con questa immagine appunto degli spot. Donne che spignattano con aria estatica mentre lui lavora al PC, legge o guarda la TV, mamme sorridenti che corrono al tavolo dove è attovagliata la famiglia per nutrire tutti con aria premurosa. Sulle donne e il loro ruolo nelle istituzioni, i media sono pieni di stereotipi, dice Laura Boldrini. Penso agli spot con le mamme che servono la famiglia o il corpo femminile usato per promuovere viaggi e computer. Penso anche, sentite bene, a chi ha scritto che sono aumentate le spese di pulizia alla Camera perché c'è un presidente donna, come se l'unica cosa che può fare bene una donna è tenere pulite le aule. Ma non è finita. Il presidente del Senato, invece, Piero Grasso, ecco, mentre tutta la crisi incombe e morde in questo momento, ieri si è occupato, sempre in questo convegno, di Miley Cyrus. Voi dite, Miley Cyrus chi è? L'ex icona della Disney, quella che faceva, come dire, tutta tranquilla e vestita molto bene quando era una adolescente, l'icona della Disney, un personaggio importante della Disney, e poi faceva Anna Montana, ecco, non mi viene il nome, e poi adesso ha fatto, a 22 anni, ha iniziato a fare dei video molto hard, molto provocatori, usando il proprio corpo. Ecco, il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha criticato i mezzi di informazione dicendo non mettete le foto hot di Miley Cyrus, che date un brutto esempio agli adolescenti che vedono questa ragazza, che prima ragazzina era tutta bravina e poi ragazzotta è diventata un po' sporcacciotta, e quindi non bisogna fare queste cose. Questo è il presidente del Senato, Pietro Grasso, e il quotidiano nazionale, la pop star Osè che turba Grasso. Ecco, presidente della Camera e del Senato, ieri si sono occupati soprattutto di questo, in questo convegno. Tra l'altro, ecco, il mio appello è questo, visto che presidente della Camera Boldrini è sbottata, basta chiamarmi signor presidente, come se fossero importanti queste cose. Io lo posso capire, da donna mi accuseranno, ah, dici così perché sei uomo, no, allora io dico faccio un appello, da oggi chiamatemi pure, anch'io lo posso dire, come il direttore di Vanity Fair prima ci ha detto, chiamatemi direttrice. E anch'io lo dico, chiamatevi pure signora conduttrice quando mi chiamerete, cari ascoltatori. Io mi chiamo Maria di secondo nome, è vero, è Alessandro Maria, da oggi sono Maria Milan, chiamatemi conduttrice Maria Milan, non me ne frega proprio niente, va benissimo così. Detto questo, siamo al premio La Carta Costa. E visto, e l'ho tenuto, non gliel'ho voluto dire, ma lo dico lo stesso, il nostro amico Luca Dini, prima, che era con noi alle 6.30, il direttore di Vanity Fair, e sì, vincono loro, perché 6 pagine di intervista con copertina, e io lo sposerò. Francesca Pascale parla in esclusiva a Vanity Fair, la fidanzata. Come iniziò tutto? Ah, mi parai di fronte a lui e dissi: presidente, quanto è bello lei! Lo so che sembra patetico, dice la stessa Francesca Pascale, un po' me ne vergogno, ma era un'emozione sincera, incontenibile. E poi ho detto, posso chiederle il cellulare? E Berlusconi mi ha risposto, ma sei spietata! Ma un giorno poi mi chiamò, poco dopo mezzanotte, mi disse, mi può richiamare subito? Come stai, Francesca? Io non ci credevo, ho messo giù, non avevo neanche più la ricarica nel cellulare, ho dovuto chiamare SOS Ricarica! E poi però sono riuscito a parlare con Berlusconi, che mi ha invitato lì, e 6 pagine di intervista, è tutto. Come lo chiama in privato? E Francesca Pascale dice amore, oppure B, ma mai Silvio, lo chiamo così. E poi lo sposerà? Lo sposerà? La prassi vuole che sia sempre io a far la prima mossa. L'ho cercato, l'ho corteggiato, l'ho fatto innamorare, l'ho fatto fidanzare, praticamente ho fatto e faccio tutto io. Lui deve dire solo sì. Così Francesca Pascale, amici di Vanity Fair, la carta, anche e soprattutto se patinata, ricordatevelo, costa. 24 mattino. Siamo qui alle 8:16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Allora, spesso si parla della casta, dei costi di Camera e Senato, tutti pronti ad attaccare i costi. Anche oggi ci sono due notizie, una notizia per la verità che, se volete, sui giornali fanno sobbalzare. Per esempio, si scopre che al Senato si spendono 1,5 milioni di euro l'anno, 1,5 milioni di euro, per donazioni a persone private, associazioni, enti religiosi, onlus. E quando uno dei questori, in questo caso la grillina Laura Bottici, ha chiesto date la lista, posso sapere a chi diamo 1,5 milioni di euro al Senato, è stato risposto c'è la legge sulla privacy. E come? Soldi pubblici, c'è la legge sulla privacy, eppure questo succede al Senato. Anche alla Camera ovviamente i conti sono sotto osservazione, tra l'altro dalle 8:30 parleremo di quell'accordo che è mancato, pare fallito, sul finanziamento pubblico ai partiti, contrariamente a quanto ci aveva assicurato settimana scorsa qui il presidente della Commissione Affari Costituzionali Sisto, che ci ha detto l'accordo ci sarà, e invece l'accordo non c'è. Ma una notizia che domenica scorsa è stata pubblicata dal Corriere della Sera riguarda gli affitti agli uffici dei parlamentari, che qualcosa si muove e cambierà. Per questo abbiamo con noi uno dei questori della Camera, l'onorevole Stefano D'Ambruoso di Scelta Civica. Buongiorno onorevole, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie, buongiorno. Fa parte anche dell'ufficio di presidenza della Camera. Onorevole D'Ambruoso, quanto spendiamo e quanto spenderemmo, questa cifra mi ha fatto veramente sobbalzare quando l'ho letta domenica, per dare a disposizione un centinaio, credo 122 uffici a onorevoli fuori dalla Camera? Sì, guarda, in tempi di cosiddette vacche grasse, quando c'erano meno controlli, quando si supponeva che l'Italia fosse la settima potenza del mondo e potevamo permetterci qualunque cosa, invece di trovare e razionalizzare gli spazi di proprietà della Camera, e che sono ancora oggi di proprietà della Camera, si è pensato di accedere ad un contratto di affitto con una società tutta romana che ha acquistato 4 palazzi nei dintorni di Palazzo Montecitorio. Per chi è romano, insomma, a distanza di 100-150 metri dal Palazzo di Montecitorio, per consentire legittimamente ai deputati di avere una loro stanza. I deputati sono molti, auspichiamo di arrivare ad una sostanziale riduzione dei deputati stessi, ma ad oggi sono 1000 i deputati, fra deputati e senatori. Che cosa è successo quindi? Abbiamo avuto la necessità di avere questo contratto d'affitto in modo un po' largheggiato, e cioè nel 97 si è pensato di affittare 4 palazzi pagandoli circa 25 milioni e qualcosa di più all'anno. Palazzo per palazzo. Ma scusi, ma perché tutti i deputati non ci stanno ovviamente con un ufficio all'interno della Camera? Al tradizionale Palazzo Montecitorio non ci stanno 630 deputati, sì. Però con un lavoro che è stato fatto in una maniera molto razionale, fredda, senza nessun tipo di interesse, ma direi in linea con i tempi di oggi, che prevedono necessariamente grandi sacrifici per tutti e soprattutto per gli italiani cittadini che poi pagano questi palazzi, ricordiamoci. Ebbene, io mi sono messo insieme agli altri questori a razionalizzare gli spazi. Abbiamo già ricavato 100 stanze per i 122 deputati senza stanze, sì. E abbiamo bloccato il rinnovo tacito di quegli affitti clamorosi, portando ad un risparmio di cosa di cui sono particolarmente felice, più che orgoglioso, perché non si tratta di orgoglio qui, ma di felicità, nel far risparmiare alla Camera e quindi ai cittadini ben 600 milioni per i prossimi 5 anni. Ecco, perché c'era un accordo di rinnovo per 122 stanze, diciamo, per i parlamentari che non ci stanno all'interno di Montecitorio, in queste stanze fuori dalla Camera, un accordo che dal 2018 al 2036 sarebbe costato 600 milioni di euro. Esatto. 600. Esatto. Voi avete, insomma, disdetto questo. E che succede quindi? Questi 122 o 100 avete un po' razionalizzato, però non tutti ci staranno. Che fanno quelli che non ci staranno, se lo pagano loro col loro stipendio? Guardi, ad oggi su 122 ne abbiamo trovate 100, sono ottimista di trovarne altre 22. Ci risentiremo di qui a poco per capire come è andata a finire questa difficile vicenda, che ha un po' di burocratico, ma soprattutto di insomma, un po' di romanità nella gestione della vicenda pubblica. La romanità. Però mi scusi, onorevole D'Ambruoso, tutti e 100, tutti e 630 deputati prima non ci stavano nella Camera, adesso voi avete fatto una razionalizzazione e ci stanno. Che ci avevano gli uffici troppo grossi? Avete ridotto gli spazi? Siamo innanzitutto, guardi, ridistribuendo gli spazi. Faccio un esempio molto semplice, senza pensare alla casta. Io nella vita ho fatto non il grillino, ma ho fatto altro. Provengo anche io, sono la mia prima esperienza, provengo dalla cosiddetta società civile, sono stato eletto con Monti e mi sento fortemente portatore degli interessi della società civile a cui continuo a appartenere, che ha sempre osservato la politica davvero come un luogo di gestione non condivisibile dei soldi pubblici. E allora che cosa abbiamo fatto? Per esempio, io come questore ho rinunziato ad un appartamento che era nella disponibilità sia dei questori che dei vicepresidenti della Camera per tradizione, dal 1948. Questori e vicepresidenti hanno avuto un alloggio di servizio prestigioso, ma un alloggio di servizio che era funzionale al proprio lavoro. Ecco, io ho rinunziato insieme agli altri questori e agli altri vicepresidenti, abbiamo rinunziato a questi appartamenti e messo a disposizione di tutta una serie di altre funzioni che sono tipiche dei dipendenti della Camera, per esempio la polizia, che è una polizia interna, per esempio i sindacati, per esempio le varie associazioni degli ex deputati che hanno legittimamente gli spazi presso quegli edifici. Ecco. Ebbene, quindi abbiamo dato questi posti dove invece di darli per dormire a noi, io mi pago il mio affitto come tutti i deputati che sono. Avete dato a disposizione questo, che è incredibile che un questore, perché un questore dovrebbe avere a disposizione dal 1948, certo perché lo stabilisce immagino degli regolamenti all'interno della Camera, ma perché dovrebbe avere a disposizione un appartamento, voglio dire? Guardi, il concetto dell'alloggio di servizio è abbastanza diffuso in tutte le pubbliche amministrazioni, davvero, se dobbiamo parlare in termini comparativi, anche negli altri paesi vicini ai nostri, la Francia piuttosto anche che nella comunità europea, Bruxelles, il senso del pagare il fuorisede, il dormire fuorisede è sicuramente una previsione che esiste anche in altri paesi. Però, quello che chiaramente oggi non è più ammissibile è evidentemente contestualizzare questo tipo di disponibilità con quello che accade fuori da quel palazzo. Questo certamente. Però lei ha detto, per esempio, dare a disposizione di gli ex parlamentari. Un'altra cifra che mi ha colpito, però credo che si riferisca al Senato, ma ci sarà una cifra simile anche alla Camera, è 800.000 euro all'anno in viaggi per l'ex parlamentari, cioè viaggi, magari vengono a Roma per un convegno, ma perché? Cioè, perché bisogna pagarglielo? Cioè, essendo ex parlamentari mantengono questo privilegio a vita? Guardi, io chiaramente ho delle perplessità che sono molto simili alle sue, non a caso sto cercando, non so per quanto tempo ancora, ma sto cercando di portare il mio contributo provenendo, le ripeto, da Commonti. Io sono arrivato alla Camera e sto cercando di portare la mia. In che senso per molto tempo ancora? La fanno fuori perché è troppo severo? Questo sono severo per i grillini, devo dire la verità, per i grillini che occupano i tetti e abbattono il decoro che deve rimanere per quel palazzo che è fondamentale per i nostri cittadini. Ecco, in quella severità la rivendico tutta, ma la verità è che stiamo cercando davvero con gli altri questori che appartengono al governo di maggioranza, quindi PD e PDL, di razionalizzare e di risparmiare, che davvero non possiamo permetterci più di gestire i soldi dei cittadini in modo così largheggiante come è stato negli ultimi anni. Per esempio, mi scusi, onorevole D'Ambruoso, è vero che riguarda il Senato, ma la notizia è questa, ma le pare possibile che ci siano 1,5 milioni di donazioni all'anno a Ollus, associazioni, enti religiosi, persone private, e va bene, uno può anche contestarlo, però vabbè, accettiamolo, ma che non ci sia una lista pubblica nel palazzo dove dovrebbe essere tutto trasparente. E questo lei ha colto uno degli aspetti che mi hanno fatto immediatamente, da un lato, sobbalzare all'inizio e poi subito stimolato ad attivarmi. Sono assurde queste assenze di trasparenza, perché in quel mondo che è caratterizzato dalla cosiddetta autodichia, questa parola così bella che proviene dal greco, che vorrebbe dire gestione autonoma senza controlli dall'esterno per l'importanza dell'uomo, ma che alla fine si è tradotta in facciamo quello che vogliamo. Esatto, pensi che io la trovo terribile, cioè orribile, bella nella sua etimologia ma orribile nel significato che ha preso, cioè come dire ce ne fottiamo di tutto e facciamo quello che vogliamo. Esatto, quella trasparenza deve essere non solo un valore, ma davvero una necessità che noi dobbiamo assicurare a chi ci ha portato lì e a chi ha voluto che andassimo a gestire i soldi pubblici. C'è anche alla Camera questo tipo di... ci sono anche alla Camera, immagino, donazioni che vengono fatte? Guardi, no, le donazioni di quella misura no. Io saprò essere... mi andrò ad informare appena esco... stamattina vado innanzitutto a leggere quelle voci sulle donazioni, ma quello che le voglio dire, quello che non è più ammissibile, ma io dico davvero con la consapevolezza di questa affermazione senza fare facile populismo e demagogia, ma davvero quello che fino ad oggi è stato possibile è che ci sono dei rinnovi di contratti, tipo questo appunto degli affitti di cui stiamo parlando, questo dei palazzi a 25 milioni l'uno, sì. Ecco, dei rinnovi di contratti automatico, senza avere gare, senza avere concorrenza tra soggetti che magari possono offrire lo stesso servizio, sì. a metà del prezzo. Ecco, quell'automatico rinnovo, questo è uno dei principi che non è più assolutamente ammissibile anche in un luogo che deve conservare il suo decoro, ma che non può continuare a lasciarlo acquare. No, ma allora faccia così, onorevole D'Ambrosio, visto che lei è sempre molto gentile, si informi se anche alla Camera, visto che lei è uno dei questori sono quelli che tengono i conti e possono accedere a tutto, si informi se ci sono dei capitoli di donazioni a privati, a Onlus. Può essere, succede, però se succede faccia in modo di renderle pubbliche, insomma faccia una battaglia su questo, se le vuole l'appoggeremo e saremo qui insomma a renderne conto, va bene? Bene, grazie a voi, grazie per lo spazio. La ringrazio all'onorevole Stefano D'Ambrosio, Scelta Civica, uno dei questori, anche membro dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. A proposito, dicevamo settimana scorsa al presidente della Commissione Affari Costituzionali Sisto, qui a questi microfoni, Popolo della Libertà ci aveva detto, alla domanda specifica, guardi che sul finanziamento ai partiti la legge mi sembra che si stia un po' affossando, ci sarà un accordo PD-PDL? Ci sarà un qualche accordo, mi batterò e ci deve essere e ci sarà. Titoli dei giornali di oggi: nessun accordo sul finanziamento pubblico ai partiti, sulla legge. Cosa succede? Quindi succede che se non c'è un accordo e non si approva la legge entro la fine dell'anno, e l'accusa è questa, stanno un po' traccheggiando, la prima rata del 2014 i partiti se la ingloberanno tutta intera, una bella fettazza di torta da 46 milioni di euro. Se invece venisse approvata questa legge, questa fettazza di torta verrebbe decurtata del 40%, che sarebbe già una piccola buona conquista. Invece se la prenderanno tutta, 46 milioni di euro. E poi è passato anche quell'emendamento, su questo pare ci sia accordo tra i partiti, di salvare, anche fare un fondo da 15 milioni di euro per i dipendenti dei partiti che verrebbero licenziati perché i partiti sono in crisi con i conti. 24 mattina. E allora 8:35 minuti, la scorsa settimana, ripeto, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Sisto, a questi microfoni ha detto ci sarà l'accordo, ci troverà un accordo sul tema della legge del finanziamento pubblico ai partiti. Oggi apri tutti i giornali, salta l'accordo, rottura PD-PDL. Il tema che più fa discutere è che il PD vuole mettere un tetto massimo, un limite massimo alle donazioni dei privati ai partiti, e invece Forza Italia o PDL, come lo volete chiamare, dice questo limite non va fatto, è una norma contro eventuali magnati, indovinate, o finanziatori o benefattori, indovinate a chi possono pensare. Ne parliamo con Antonio Misiani, onorevole del Partito Democratico e anche il tesoriere. Buongiorno Misiani, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Voglio salutare anche Roberta Lombardi, ex capogruppo e ora onorevole del Movimento 5 Stelle, movimento che insomma da sempre dice noi li rifiutiamo questi soldi. Onorevole Lombardi, buongiorno e benvenuto. Allora Misiani, intanto l'accusa è state traccheggiando, perché la prossima rata del 2014, la prima, è di 46 milioni, se passasse la legge verrebbe già decurtata del 40%, se invece traccheggiate così la legge non si approva e tracchete che 46 milioni arrivano, che risponde? Ma risponde innanzitutto che la prossima rata di contributi pubblici verrà erogata a fine luglio 2014, quindi tra quasi un anno, e si può traccheggiare finché si vuole, ma c'è tutto il tempo di approvare una legge. Noi vogliamo approvare una buona legge e quello che sta accadendo è esattamente il contrario. Stiamo entrando nella carne viva di questo provvedimento e la discussione sul tetto massimo alle singole donazioni private, con lo scontro che purtroppo si è innescato tra chi lo vuole, noi, ma mi risulta anche il Movimento 5 Stelle, e invece chi vuole il campo libero per i grandi finanziatori privati, ripeto, è la dimostrazione che la discussione è una discussione seria, non finta. Ecco, chi lo vuole, anche il Movimento 5 Stelle, Roberto Lombardi, lei che di questa commissione fa parte, è interessante capire questo punto, perché voi siete ovviamente per zero finanziamento. Assolutamente, questo è stato detto anche, varie volte. Abbiamo presentato anche una proposta di legge a firma dell'intero gruppo che infatti non prevede finanziamento pubblico, così come coerentemente abbiamo rifiutato il finanziamento di 42 milioni di euro per questa tornata elettorale, così come facciamo politica da anni sul territorio a praticamente zero euro. Perché allora Misiani dice in realtà voi vorreste, se dovesse passare questa legge, cioè voi qual è la vostra posizione? Siete contrari e quindi non partecipate al dibattito? No, parteciperete e siete per un tetto massimo alle donazioni? Guardi, noi partendo dalle premesse che le ho detto, abbiamo comunque molto seriamente lavorato in Commissione Affari Costituzionali portando parecchi emendamenti che erano dei contributi, fermo restando che appunto le nostre posizioni sono chiare, però siccome siamo opposizione non abbiamo i numeri per farle passare. Anche perché insomma Misiani prima ha detto non si può traccheggiare fino a luglio, che è il momento del pagamento della rata del 2014, in realtà sono 20 anni che traccheggiano, cioè dal 93, cioè dal referendum per il che abolisce il finanziamento pubblico come in qualunque forma esso venga riproposto, diretto, indiretto, rimborsi eccetera eccetera. Noi però abbiamo detto siamo in Parlamento e cerchiamo di migliorare il più possibile a favore dei cittadini quelli che sono i provvedimenti all'esame delle commissioni o dell'aula dove e quindi questo tetto attiva, certo insomma. Questo tetto lo vedreste bene insomma è sempre troppo alto per noi, assolutamente. Quanto dovrebbe essere il tetto? Guardi, nei nostri emendamenti abbiamo previsto un tetto di 5.000 euro a donazione singola, perché anche coerentemente col tipo di campagna elettorale che abbiamo condotto e di raccolta fondi che abbiamo condotto, privilegiamo le micro donazioni, in quanto poi evitano quei fenomeni di finanziamento mascherato da parte delle lobby. 100.000 euro sono comunque tanti. 5.000 euro. Vorrei... No, il tetto di Misiani, sentiamo, Misiani, voi cosa proponete come tetto? Noi abbiamo proposto 100.000 euro. Ah beh, tra 5.000 e 100.000 euro nel corso dell'anno. Non a donazione, quindi no, certo. Un singolo finanziatore può dare al massimo nell'anno solare 100.000 euro. Però 100.000 euro ogni anno, cioè 100.000 euro all'anno, anche 5.000 immagino, onorevole Lombardi, è all'anno. 5.000. Sì, sì, assolutamente. 5.000 euro all'anno, beh c'è una differenza insomma, 100.000 euro e 5.000 euro, ma onorevole Lombardi, voi come la vedete questo dibattito? Cioè come un qualcosa che spesso si può magari qualcuno fare delle critiche al fatto il Movimento 5 Stelle non sta riuscendo a rispettare tutto quello che ha promesso, però su questo punto forse cos'è? Sperate di prendere ulteriori voti vista la litigiosità dei partiti tradizionali? Ma si dice che tra i due litiganti il terzo gode, ma francamente a noi questi, come si dice, interessi un po' pelosi non li interessano, cioè non la ragioniamo in questa maniera, non misuriamo le nostre azioni in previsione del consenso elettorale, non l'abbiamo mai fatto, altrimenti avremmo fatto anche nei mesi passati altre scelte. In realtà noi stiamo cercando di ridare una dimensione normale alla politica, riportandola anche a quella che è la dimensione economica che le famiglie incontrano ogni giorno nell'affrontare determinati tipi di spese. Le faccio un esempio, una serie di emendamenti che noi abbiamo proposto sulle detrazioni di cui è possibile usufruire nel momento in cui si effettuano le donazioni, miravano a ristabilire un sistema di equità rispetto alle detrazioni di cui gode una famiglia quando deve affrontare delle spese scolastiche oppure spese sanitarie eccetera eccetera, che godono di una franchigia e poi di un tetto del 19%, le spese per esempio quelli degli asili nido c'è anche un limite massimo. Quindi cercavamo, tutti i nostri emendamenti sono tesi a cercare di dare un senso di concretezza, un ancoraggio alla realtà di questo progetto di legge. Politica, ma tra l'altro progetto di legge e disegno di legge governativo che, onorevole Misiani, se non fate, c'è anche l'altra minaccia, questa più esclusivamente politica, del Premier Letta di dire faremo un decreto urgente su questa vicenda. Se c'è ovviamente, se c'è il carattere di urgenza. È una minaccia che incombe sui partiti o è una minaccia un po' sgonfia secondo lei? Ma guardi, innanzitutto torno alle riflessioni che faceva l'onorevole Lombardi. Noi dobbiamo costruire un sistema che abbia una logica e che riconcili gli italiani con la politica. Questo, a nostro modo di vedere, deve essere fatto con due operazioni. La prima è dare ai cittadini e solo ai cittadini scelta di sé quanto finanziare le forze politiche, anche utilizzando soldi pubblici, perché il 2 per 1000, come noto, sono comunque soldi pubblici. Se i cittadini decidono di finanziare il proprio partito, il partito riceve i soldi; se i cittadini decidono di no, il partito non riceve alcun finanziamento. E questo è la democratizzazione del finanziamento dei partiti, che noi riteniamo sia un passaggio fondamentale. Il secondo elemento è orientare l'autofinanziamento, il finanziamento proveniente dai privati, verso tante piccole donazioni. E questo lo si deve fare, a nostro giudizio, costruendo un sistema di detrazioni fiscali che incentivi molto le piccole e le micro donazioni, sì, e ponendo un tetto massimo, come dicevamo prima, alle donazioni, per impedire il condizionamento dei grandi finanziatori. Vabbè, però tetto massimo, no, su questo c'è un dibattito, cioè il PDL non lo vuole, o Forza Italia, perché sì, dite, no, è una norma contro Berlusconi. Anche la questione della percentuale delle detrazioni va posta tenendo conto del lavoro che fanno i partiti politici, i partiti e i movimenti politici, che nelle istituzioni fanno le leggi. È per questo che prevediamo forti incentivi fiscali per le piccole donazioni, che non condizionano le scelte politiche delle forze presenti nelle istituzioni, esattamente come avviene negli altri paesi. Però quanto al decreto legge, capisco il punto di vista del governo. Io noi lavoriamo perché il Parlamento approvi nei tempi più rapidi possibili una buona legge. Sì. È una materia squisitamente parlamentare. Io dubito molto che ci siano i requisiti costituzionali per un decreto legge su questa materia. Ah, vabbè, è questa la sua posizione. Però, onorevole Misiani, prima del traffico, introduciamo quest'altro argomento. Mi dica che non è vero, ma temo invece che sia vero, che è passato quell'emendamento che prevede di allargare anche la cassa integrazione agli eventuali dipendenti dei partiti che dovessero perdere il posto di lavoro, andare in cassa integrazione. È così? Lei pone la questione in modo demagogico. È passato un emendamento che taglia ulteriormente, rispetto al disegno di legge del governo, le risorse date ai partiti e utilizza queste risorse per dare ai lavoratori dei partiti lo stesso diritto che hanno milioni di lavoratori nelle aziende, cioè gli ammortizzatori sociali nei casi di ristrutturazione aziendale. E questa cosa l'abbiamo fatta non caricandola ulteriormente sulle radio, ma tagliando ai partiti. Andranno ancora meno soldi ai partiti, e questi soldi andranno, se sarà necessario farlo, ai lavoratori dei partiti. No, ma sa, perché è chiaro che su questo tema. Ma non è demagogia, perché sa, i lavoratori dei partiti sono le persone che perdono eventualmente il posto di lavoro, sono le vittime di questa situazione, che però suona a molti, ma vorrei partire da qui dopo le informazioni sul traffico, anche sentendo il parere di Roberta Lombardi, suona a molti come una sorta di ricatto, perché per molti, sa, onorevole Misiani, è un po' inaccettabile sentire che i partiti hanno mangiato molto in questa grande torta di soldi pubblici, e adesso dicono: ci tagliate i fondi e noi siamo costretti a licenziare persone che magari guadagnano 1.000-1.100 euro al mese, sono segretarie, sono persone che hanno creduto nel partito, che hanno trovato un posto di lavoro anche a 800 euro al mese. Ecco, suona un pochino come un ricatto, però ripartiamo da qui tra un attimo. Allora, alle 8:48 minuti, per l'onorevole Misiani del PD è demagogico impostare il discorso a dire gli eventuali cassi integrati, coloro che perdono il posto di lavoro, i dipendenti dei partiti, perché verrebbero pagati con soldi che vengono sottratti ai partiti stessi. Per lei, onorevole Lombardi, del Movimento 5 Stelle, è un approccio demagogico? Ah, ma noi siamo i demagoghi per eccellenza. Quando diciamo parole di realtà e di concretezza e buonsenso, veniamo tacciati di populismo e demagogia. Poi però andiamo a leggere i discorsi di... Adesso le leggo un discorso, mi dica chi è stato a dirlo. Pensate ai rimborsi elettorali. Tutte le leggi introdotte dal 94 oggi sono state ipocrite e fallimentari. Non rimborsi, ma finanziamento mascherato. Indovini chi è? Mi fa il quiz. Enrico Letta nel suo discorso per ottenere la fiducia. Quando le dice lui questa cosa non viene tacciato di demagogia. Tornando invece alla domanda sulla cassa integrazione, È interessante notare che la cassa integrazione nei confronti di questi lavoratori è prevista solo per i partiti o movimenti politici che si iscrivano in questo registro, i cui requisiti di iscrizione sono degni praticamente del Partito Comunista dei tempi migliori, e semplicemente per i lavoratori iscritti al registro. Quindi se un movimento politico snello, giovane, fluido, come se ne stanno facendo e creando tanti, non solo in Italia ma anche un po' in tutto il mondo, e non faccio l'esempio del 5 Stelle perché vorrei sgombrare il campo, l'ho detto anche in un intervento in commissione, noi avendo fatto la scelta di non accedere al finanziamento pubblico stiamo combattendo questa battaglia non pro domo nostra, insomma, ovviamente. Quindi ci siamo preoccupati di creare le condizioni perché i cittadini possano accedere alla vita politica con movimenti quindi molto destrutturati, e questi movimenti, se non si iscrivessero in questo fantomatico registro, non potrebbero avrebbero nessun genere di tutela per i loro dipendenti. Ma io non so se la questione, qui abbiamo anche onorevole Misiani, due mondi, se vuole, contrapposti, cioè Roberta Lombardi rappresenta quel movimento che dice si può fare politica anche senza strutture, un partito un po', un movimento un po' liquido, senza sedi, senza dipendenti. Allora il cittadino italiano dice, al di là di fare se sia una buona o cattiva politica, non do un giudizio, è si può fare così, no? Ma guardi, cioè loro sono la dimostrazione che almeno in un'elezione, poi in alcune elezioni ce l'hanno fatta, si può fare allora anche con meno soldi. Ma guardi, innanzitutto bisogna ricordare che il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai rimborsi elettorali, ma non rinuncia ai soldi pubblici che vengono dati ai gruppi alla Camera e al Senato. Quindi anche la rinuncia ai contributi pubblici è soltanto per un pezzo, mentre altri soldi pubblici vengono legittimamente utilizzati dal Movimento 5 Stelle per assumere persone e costruire apparati nell'ambito dei gruppi parlamentari. Quanto alle modalità organizzative, sono diversi modi di fare politica. Io credo che inevitabilmente debbano coesistere i partiti che lavorano prevalentemente attraverso internet con le forze politiche invece che preferiscono mantenere un radicamento territoriale, luoghi dove le persone si possono incontrare. Le une costano di più come struttura, è ovvio, e le altre no, al cittadino. Sì, però credo che per il cittadino avere la possibilità di partecipare anche di persona, di discutere, di fare congressi, di utilizzare gli spazi di democrazia che offrono le forze politiche è necessario. Sia utile, non so, un corretto dibattito. E vorrei ricordare all'onorevole Lombardi che il registro sovietico di cui lei parlava non fa altro che prevedere dei minimali requisiti di democrazia interna, perché noi dobbiamo anche riconoscere una volta per tutte che uno dei mali della Seconda Repubblica, che rischia di riprodursi nella Terza, sono i partiti padronali e autoritari che vengono definiti senza regole, ma che in realtà c'è uno regole. Che comanda, che è più uguale degli altri e che caccia i dissenzienti al minimo. Ma ha capito, onorevole Lombardi, dice il Partito Democratico è strutturato in sedi, cioè in punti di democrazia dove si può andare a discutere. Voi siete più partito liquido, ma con tutti i rischi del caso, anche, vabbè, non vogliamo entrare nella gestione, come dire, dall'alto, con uno che comanda e gli altri che eseguono. Anche perché sarebbe una lettura errata, perché ovviamente si conosce il nome di Beppe Grillo, che è il nostro megafono, perché ovviamente lui ha una storia personale e una credibilità che lo rendono un interlocutore credibile per tanti cittadini. Però siccome noi lavoriamo molto sulla rete in pienissima trasparenza, nel senso che tutti i nostri forum di discussione sono aperti in lettura e in scrittura quando uno ci si iscrive, a tutti è possibile vedere che qualunque genere di attività che venga pianificata sul territorio nasce esclusivamente dalla adesione entusiasta dei volontari, che poi sono quelli che la realizzano, la pensano e la realizzano. E noi abbiamo comunque un forte radicamento territoriale. Io conosco, per esempio, ovviamente essendo di Roma, la realtà romana, erano 19, adesso sono 14 municipi, abbiamo 14 gruppi municipali che ogni fine settimana, perché poi considerate che sono tutti volontari, quindi persone che lavorano durante la settimana. E chi paga questi? Cioè, ci sarà una sede da affittare? Assolutamente no. Se qualcuno ha un garage, lo mette a disposizione del gruppo municipale come punto d'appoggio del gazebo, volantini. Quindi si fa così, diciamo, ci si arrangia, diciamo. Ci si arrangia. Per esempio, nel mio municipio noi ci vediamo nel negozio di moto di un nostro volontario. Perfetto. Che ha uno spazio di incontro e ci vediamo lì. Fatemi sentire Giovanni dalla provincia di Vicenza per concludere. Un ascoltatore, Giovanni, sia breve però, gentilmente. Velocissimo. Dica. Velocissimo. Mi sembra di ascoltare tanti discorsi ipocriti, perché 46 milioni che arriveranno nelle tasche dei partiti ci sono, ma mancano i 2 milioni per l'IMU e l'aumento dell'IVA. No, 2 miliardi. 2 miliardi, vabbè, comunque cominciamo con quelli. Ah, intanto, dice, cominciamo a togliere quei 46 milioni, vadano nel gruzzolo per il miliardo, per la verità, che serve per scongiurare l'IVA. Giovanni, grazie, la ringrazio. Scusi se devo chiudere, ma i tempi sono questi. Antonio Misiani del Partito Democratico e Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle sono state con noi. Grazie davvero. Ci risentiamo quando? Domani, puntuali, alle 6.30 con 24 Mattino. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto Cocopro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie.